Che cos'è il bilancio partecipato? Il bilancio partecipato è fatto dal Comune di Bologna ogni anno e dà la possibilità ai cittadini di votare per progetti di cura e animazione del territorio che sono proposti dagli stessi cittadini. I progetti più votati possono essere realizzati. Per votare il progetto che ti piace di più, vai alla pagina internet indicata qui sotto. Se hai bisogno di aiuto per votare, ti puoi rivolgere all'ufficio dedicato del tuo quartiere. Per maggiori informazioni puoi rivolgerti all'ufficio Reti e Lavoro di Comunità all'indirizzo email che trovi qui sotto.